la penultima puntata stagionale di Radio Tagadà, sempre con Pasca la voce e Dynamite ai controlli ed in diretta dallo spazio occupato Cuore in Gola di Milano. Quest'oggi avremo nel nostro studio improvvisato Carla Ceruso, la sorella di Fabrizio, assassinato dalle forze dell'ordine l'8 settembre del 1974 a San Basilio durante le frenetiche giornate in opposizione. Nell'opposizione popolare a sfratti e sgomberi, parliamo di quasi 150 famiglie che vivevano negli appartamenti occupati dell'OIACP, l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, tra via Montecarotto e via Fabriano a Roma. Con lei parleremo della presentazione del documentario Io sono Fabrizio, che ieri è stato presentato e proiettato al T28 a Milano in via dei Transiti, mentre oggi l'iniziativa si terrà proprio qui al Cuore in Gola. Questa due giorni di iniziative è in avvicinamento alla quattro giorni che si terrà per le giornate di Dax a marzo 2023. Leggeremo poi le dichiarazioni di Alfredo Cospito ed Anna Beniamino per il nuovo processo d'appello di Scriptamanent. Ci collegheremo con una compagna che ci racconterà cos'è successo a Milano domenica scorsa tra Piazza Fontana e Largo Cairoli, ed infine continueremo con i nostri appuntamenti che ci descrivono un po' la città che cambia. Oggi andremo a sud-est a capire cosa sta accadendo nella zona compresa tra Piazzale Lodi e Corvetto. Bene, ora iniziamo con un po' di musica. Vai DJ. Questi erano i mitici NoFX, band punk rock nata nel 1983 a Los Angeles, in California. Il brano All Out Against è tratto dall'ottavo disco So Long and Thanks for All the Shoes del 1997. Sono le 14.36, questa è Radio Tagadà, Pasca la voce, come detto è Dynamite ai controlli, e come detto prima, allora proviamo a farci una chiacchierata con Carla. Rispetto a tutto ciò che è avvenuto a San Basilio nel settembre del 74, e poi andiamo anche a fare due chiacchiere sulla presentazione del documentario Io sono Fabrizio, e più in generale sulla due giorni di iniziative che sta attraversando Milano, che è iniziata ieri appunto con la proiezione del documentario Sotto il cielo di piombo. Sotto un cielo di piombo di... ieri sera è andato in onda i Transiti Sotto un cielo di piombo di Massimo Sestili, che comunque ci fa vedere la vita di come era negli anni 50, 60 e 70 nelle baracche e nelle occupazioni di Roma, e quello che succedeva realmente alle persone che non avevano casa e vivevano nelle baracche, e in particolar modo a quelli di Pietralata e dell'Acquedotto Felice, che sta sulla Casilina comunque, ok? Ok, allora se vogliamo iniziare, se ci vuoi descrivere un po' la situazione, insomma,

Abbiamo ascoltato, come detto prima, gli Arcade Fire, gruppo musicale indie rock canadese formatosi nel 2001 a Montreal con Rebellion Lies, brano tratto dal loro primo disco Funeral del 2004. I secondi invece erano i Tame Impala, progetto psychedelic rock di Kevin Parker. Il brano era Elephant, uscito come singolo in formato 12 pollici nel 2012. Ed abbiamo in collegamento ora una compagna che ci racconterà un po' cos'è successo a Milano domenica scorsa. Ciao, ci senti? Pronto? Ci senti? Ciao, ci senti? Sì, io vi sento, mi okay. Sentite? Ok, sì, scusa, un po' di problemi tecnici al bello della diretta. Ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti. Ciao, benvenuta a Radio Tagadà. Allora, niente, volevamo un po' farci raccontare da te cosa è successo domenica scorsa tra Piazza Fontana e Largo Cairoli ed il perché, insomma, di questa iniziativa organizzata appunto domenica 4 dicembre. Sì, domenica 4 dicembre abbiamo organizzato, dico abbiamo, perché eravamo diversi collettivi uniti per una marcia antifascista proprio in virtù dell'organizzazione di una fiaccolata fascista in Cadorna. Ha visto la partecipazione, appunto, come vi dicevo, di più gruppi, tra cui c'eravamo noi di Together for Iran per la comunità iraniana, c'era anche

Allora, 15 e 19, sempre in diretta su Radio Tagadà, ricordiamo anche i nostri contatti, potete scriverci via Telegram al 351-5579-698, scriverci anche all'email radiotagadà@autistici.org e ricordiamo che siamo anche su Facebook ed Instagram, potete trovare i nostri podcast delle dirette che poi vengono caricati sul sito Cronache di Regime. noblogs.org, cronache scritto con la K. E ora andiamo a presentare le canzoni della doppietta musicale che il buon Dyna ci ha consigliato per oggi. I primi erano gli Human, progetto musicale post-punk lo-fi dal Messico, con il brano Go Away, tratto dall'album All Of, uscito in limited edition nei formati in cassette e CD del 2018. E poi abbiamo sentito i Foo Fighters, The Pretender, il secondo brano appunto del gruppo musicale rock alternativo statunitense fondato a Seattle nel 94 dal musicista Dave Grohl, ex batterista di Nirvana. Il brano The Pretender è tratto dal disco Echoes, Silence, Patience and Grace del 2007. Ed ora, per smorzare un po' l'ambiente, visto che abbiamo parlato di un compagno ucciso dalle forze dell'ordine nel 74 e poi abbiamo letto anche le dichiarazioni dei due compagni che sono in carcere per l'operazione Skiptamanent e di Alfredo, che appunto lo Stato vuole seppellire vivo nel regime 41 bis, parliamo un po' di sport popolare, come al solito, con la nostra rubrica dello sport popolare minuto per minuto. Vai Dyna! E partiamo col girone B della categoria calcio a 7 del CSI Open Femminile. L'ultima partita del 2022 vedrà il recupero domenica 18 dicembre tra Vittoria Junior ed Ardita Giambellino. La partita si disputerà alle 18.30 all'Oratorio San Silvestro in via Maffei 29. Alloggi nel girone, che vede la presenza delle squadre popolari delle Rosa Flu, ovvero del Partizan Bonola, delle Nero Arancio, quindi dell'Ardita Giambellino e della Sant'Ambrose Piccione. La posizione in classifica delle ragazze che seguiamo ogni settimana è questa: il Partizan Bonola è quarto in classifica con 13 punti, 9 partite giocate. La Sant'Ambrose invece è penultima a 4 punti con 8 partite giocate. E l'Ardita purtroppo invece occupa il fanalino di coda con un solo punto in 7 partite. Speriamo in un 2023 migliori per le terribili ragazze del calcio popolare meneghino. Invece parliamo della Stella Rossa Rugby FIR. La Stella Rossa Rugby FIR infatti fa la sua prima apparizione in Coppa Italia 7, giocata a metà campo con i tempi da 12 minuti a Genova. Le ragazze sono appunto andate in campo a Genova domenica scorsa allo stadio Carlini del triangolare con CUS Genova e CUS Piemonte Orientale. Nella prima partita hanno tenuto bene testa le genovesi, ma dopo una certa stanchezza, pochi cambi e la minore esperienza vengono fuori e dopo 20 minuti di battaglia cedono, prendendo due mete negli ultimi 4 minuti finali. 4 mete per la Genovesi, una per le nostre Regas. Nella seconda partita invece crollo totale e tante mete prese con nessuna realizzazione all'attivo. Ma al finale tanta presa bene sia in campo che sugli spalti. Un gruppo di tifosi le ha seguite da Milano cantando durante tutte le partite, anche durante CUS Genova, CUS Piemonte Orientale. Per la cronaca è il CUS Genova ad aggiudicarsi questo triangolare. Ancora riposo per la WISP di Stella Rossa, che domenica prossima va a Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, per affrontare la trasferta contro il Farafulla Lugiana Rugby, l'Unigiana Rugby. L'ardita maschile, parliamo dell'ardita maschile, e quindi ci trasferiamo nel calcio a 7 maschile del campionato CSI. Quindi l'ardita chiude il 2022 a metà classifica con 4 vittorie e 5 sconfitte, sperando di continuare il mood positivo visto nelle ultime gare. Ora si pensa già al 2023. E poi andiamo invece nel Dal Pozzo, sempre categoria C di calcio a 7 del CSI. Il Dal Pozzo perde 6-1 col Seregno in casa e chiude il 2022 con 9 punti, con 2 vittorie all'attivo, 3 pareggi e 4 sconfitte, e naviga nella parte bassa della classifica. Passiamo invece ora al calcio amatoriale ad 11. Nella categoria A, girone B della categoria A, il Partizan Bonola deve chiudere l'anno con 3 punti nella difficile trasferta con Rosario. Il 13 dicembre, infatti, i dadaisti proveranno a portarsi a meno 5 della vetta contro la terza in classifica. Partizan Bonola, CSI, è attualmente quarto. Nella categoria B, invece, la Santa perde 3-1 contro il Greco San Martino ed affronterà la prossima mercoledì fuori casa contro il Virtus Football Club, settimo in classifica con 10 punti. Sperano anche loro in un anno nuovo maggiormente prolifico. Ed ora passiamo alle squadre di sport popolare che militano nella Federazione Italiana Gioco Calcio, nella FIGC. Partiamo dalla terza categoria, nella dodicesima giornata, sconfitta in casa per 3-1 contro Mascagni per i gialloverdi della Dal Pozzo. Ed invece domani si riposa, il girone d'andata in ogni caso sarà chiuso al primo posto con 31 punti. Ed ora testa a febbraio per la ripartenza del campionato e dalla Coppa Lombardia. Infatti domenica prossima dovrebbe esserci la partita di Coppa Lombardia per la Dal Pozzo. Nella quattordicesima giornata invece del girone Q di seconda categoria, la Sant'Ambrose perde 2-0 col San Giorgio e domani giocherà l'ultima dell'anno solare contro il Niguarda. Giocheranno in casa presso il centro sportivo Camerone in via Becchi 2, sperando di risalire la china. Penultima posizione e 6 punti, piena zona retrocessione per la Santa. Nel girone P invece, della seconda categoria, con cui chiudiamo gli aggiornamenti dello sport popolare per oggi, il Partizan vorrebbe continuare la sua cavalcata. Domenica scorsa vittoria 6-2 in casa contro il Cesano Boscone e domani trasferta a mezzogiorno contro il Visconti per mantenere la prima posizione e passare delle belle vacanze di Natale. Il Partizan è prima a 35 punti, il Real Trezzano segue subito a 33. Real Trezzano, che ricordiamo, giocherà invece in casa coi Viscontini. Vedremo, ci aggiorneremo settimana prossima con un bilancio di questa prima parte di stagione di sport popolare milanese. Per ora dallo studio è tutto, e linea al DJ. Ultramarine, we take a drink, see Judy team. to all the young dudes. I see on the TV. Gli Edix sono un gruppo punk rock new wave formatosi a Ipswich nel 1975. Al tempo il gruppo non aveva ancora adottato il look che lo avrebbe reso famoso, ma vestiva abiti tipici della moda punk. Il travestimento da drughi di Arancia Meccanica fu utilizzato per la prima volta, secondo il cantante Kate Warren, intorno al 1981, più o meno nel periodo di pubblicazione del primo album del quartetto, Song of Price. Questa era Na Na Na Na, tratta da Fifth Overture del 1986. E dopo gli Edix torniamo in diretta e, come detto prima ad inizio puntata, cerchiamo di capire insieme ad un compagno di Off Topic come cambia la città che viviamo ed attraversiamo. Oggi cercheremo di farlo cercando di parlare un po' della zona sud-est di Milano. Ciao, ci senti? Sì, vi sento, grazie. Spero mi sentiate bene anche sì, voi. Sì, in teoria si sente forte e chiaro. Sì. Perfetto, e come quindi abbiamo detto prima, abbiamo ribadito ora, volevamo iniziare a parlare un po' dei cambiamenti che investiranno Milano e soprattutto la città tra Piazzale Lodi e Corvetto. Quindi se abbiamo voglia di iniziare a parlare un po' del progetto di riqualificazione dello scalo di Porta Romana. Ok, sì, se noi consideriamo lo sviluppo urbano di Milano da qui al 2030, sicuramente esistono due importanti fuochi, due importanti punti di interesse, che sono da un lato la zona San Siro e dall'altro appunto Milano Sud e tutto quel tratto che va dallo scalo romano fino a Santa Giulia. Questo fra l'altro è oggetto anche di un laboratorio che stiamo sviluppando come collettivo, rispetto a cui appunto cerchiamo di indagare quali sono le motivazioni, cosa succederà in queste due aree. Quindi focalizzandoci sulla parte Milano Sud, di rilievo negli ultimi anni l'argomento di cui più si è trattato è quello rispetto al scalo romano. Gli scali ferroviari erano intanto uno strumento importante per la circolazione delle merci sulla città e consentivano appunto di far arrivare le merci attraverso rotaia, quindi dando comunque un'organizzazione razionale della circolazione delle merci. Sono adesso in larga parte, non nel caso di scala romana, di proprietà pubblica si intende il Ministero dei Trasporti e Ferrovie dello Stato dopo il ciclo di privatizzazioni che è avvenuto negli anni 90. E rispetto a scala romana, oggi siamo davanti a un terreno che non è più pubblico, non è più quindi di proprietà pubblica, perché poi dopo rispetto al concetto di pubblico bisognerebbe anche approfondire. Comunque parlando della semplice proprietà, non è più proprietà pubblica, ma a fine mese scorso si è rogitato un qualcosa che comunque era già nei piani, perché la progettazione dello scalo parte spedita nel 2020 e nel 2021 prende forma. Da Ferrovie dello Stato, quindi, l'area passa a un soggetto privato, al Fondo Immobiliare di Sviluppo, al Fondo di Sviluppo Immobiliare Porta Romana, che il motivo particolare di interesse anche per noi è composto da tre soggetti che non sono una novità per lo sviluppo urbano di Milano, sono grandi attori nazionali e internazionali, sono appunto Coima che su Milano ha raso al suolo e ricostruito il quartiere di Porta Nuova, il cui presidente è Manfredi Catella, che ha un passato da Ligrestiano, subentra a Ligresti nell'essere un po' il master dello sviluppo immobiliare su Milano, e il Coima che è anche una diretta emanazione di Heinz, che è un altro soggetto molto molto attivo su Milano. Coima ha un patrimonio immobiliare valutato sui 9 miliardi di euro, che lo rende un soggetto economicamente molto potente, e evidentemente, dati gli ultimi progetti, anche politicamente il molto rilevante, molto quotato su Milano, poiché ovunque si vada, i grossi progetti di sviluppo, in questi Coima ha un piede. Altro soggetto che compone il fondo è Covivio, che è un gruppo internazionale con sede legale in Francia, ma in Italia molti interessi. Del Vecchio è vicepresidente del gruppo, e il patrimonio immobiliare di Covivio è valutato nell'ordine dei 30 miliardi di euro. E il terzo soggetto è Prada Holding, che in zona aveva già rilevanti interessi, la Fondazione Prada sostanzialmente, che è all'atere, è limitrofa allo Scalo Romano, e un progetto di sviluppo guidato anch'esso da Covivio a sud dello Scalo, chiamato Symbiosis. Questo va a ridefinire in larga parte tutta la zona Milano Sud, perché il Scalo Romana e il Symbiosis partono dalla circonvallazione, dalla fine di Via Crema sostanzialmente, da dove inizia lo Scalo, quindi in una zona che noi definiremmo centrale, anche se non è centralissima, e arriva fino a Chiaravalle, fino al parco agricolo. Symbiosis nasce prima del progetto di Scalo Romana, e questo comunque porta tutti evidentemente a fare dei sillogismi e a comunque farci pensare che la questione delle Olimpiadi, del grande evento, come è stato ai tempi di Expo, più che un valore in sé, ha un valore che si collega ai profitti, alla speculazione, allo sviluppo immobiliare, alla crescita urbana di un certo tipo, che quindi mira a fare il plusvalenze a scapito dei servizi, della società e dei livelli di uguaglianza che questa può sviluppare. Symbiosis al suo interno accoglierà grandi marchi internazionali. Al suo interno c'è chiaramente Louis Vuitton, che LVMH è un altro dei soggetti che sulla zona ha investito, un fondo fra i più quotati, fra i più ricchi al mondo. Ci sono grandi gruppi farmaceutici nel contesto, c'è la Boehringer Ingelheim, un'industria farmaceutica tedesca, che lì ha preso spazio, c'è la Mars, che è quella delle merendine, che è una multinazionale americana, e c'è SNAM, un soggetto quindi che lavora sull'energia, e Fastweb. Quindi grandi gruppi si insediano in una zona precedentemente artigianale, in zona fabbriche, di, non a livello di quelle che sono a sé nella parte nord, dove invece storicamente l'insediamento industriale è fatto da, da grossi gruppi e da industrie pesanti. A sud c'è sempre stato un importante insediamento artigianale, industriale, però di livello, livello quantitativamente inferiore. Con la crisi e con la trasformazione evidente iniziata a fine anni 90 e inizio 2000 su Milano, grossa parte di questi spazi sono stati abbandonati e nel momento in cui si è creato un vuoto, gli appetiti dei grossi investitori hanno realizzato quello che al momento è il progetto più rilevante dal punto di vista finanziario sul territorio milanese. Ad est il tutto viene integrato anche dalla questione che riguarda Santa Giulia, che a fine anni zero è stato oggetto di una grande operazione immobiliare gestita da Zunino, uno dei colligresti, uno degli immobiliaristi, dei palazzinari più importanti degli anni zero e degli anni 90 e degli anni 80. Progetto che fu un grande buco nell'acqua e che è costato il fallimento all'azienda di Zunino, problemi collegati alle bonifiche e un'area che è stata rilevata dagli istituti bancari con cui Zunino si era precedentemente indebitato. Quindi Unicredit e Intesa San Paolo, che costituiscono una SPA chiamata Risanamento, e da questa società è emerso un nuovo grande progetto a cui collabora anche Lendlease, che è un gruppo australiano che lo si ricorda perché ha collaborato anche al futuro dell'area Expo. E un grosso progetto da più di 1 milione di metri quadrati, che da un lato è un servizio alle Olimpiadi tramite il Pala Italia, che dovrebbe proprio insediarsi su Santa Giulia, dall'altra è una grossa operazione che prevede il solito parco urbano più utile come impatto turistico o come passeggiato, come foto poi da postare sui social da parte dei turisti piuttosto che la vita del quartiere, e viali, promenade adesso si chiamano, pieni di servizi, attività commerciali sulla falsa riga sostanzialmente di quello che adesso potete vedere quando andate a City Life, no? Io vi auguro di andarci il meno possibile, quindi se capitate da quelle parti noterete che l'idea di centro commerciale a cielo aperto ha proprio in City Life un importante esempio. Un qualcosa di molto simile quindi avverrà anche a Santa Giulia, e questo in collegamento con le Olimpiadi. La questione delle Olimpiadi è un fattore perché, come è stato Expo, il grande evento diventa un acceleratore di importanti trasformazioni che erano già in atto, ma che avevano magari bisogno di quella spinta molto istituzionale e molto pubblica per poter divenire poi in tempi brevi realtà. Lo Scalo Romana ospiterà il Villaggio Olimpico fino al 2026, cioè nel 2026, quindi verrà prima attrezzata a Villaggio Olimpico con strutture idonee ad ospitare gli atleti che verranno a fare le Olimpiadi, insomma, 1.400 posti. Successivamente, il minuto dopo, come piace dire a Manfredi Catella, che è un grande, il grande protagonista di questo investimento, un minuto dopo diventerà studentato e un grande parco urbano e una serie di attività commerciali, di servizi anche abitative con una quota molto ridotta concessa all'housing sociale, housing sociale, quindi non un'edilizia popolare, ma l'housing sociale. E l'edilizia convenzionata che col tempo qui a Milano abbiamo conosciuto, per dare un'idea dell'housing sociale su Milano Porta Nuova, dell'edilizia convenzionata, anzi scusatemi, si tratta di palazzine da 2-3 piani con un prezzo al metro quadro che si aggira attorno ai 3.500 al metro quadro, che è inferiore rispetto a quello che è la media del quartiere probabilmente, ma è qualcosa che definire sociale è abbastanza strano, diciamo, come definizione. Quindi le Olimpiadi su scala romana come villaggio olimpico, e le Olimpiadi su Santa Giulia come palazzo, Pala Italia, il palazzo che poi ospiterà l'hockey su ghiaccio. Rispetto al Pala Italia è accaduto nei mesi scorsi un contenzioso terminato poi nel luglio scorso, che anche questo comunque è di rilievo, è interessante perché si fa capire come comunque anche all'interno della borghesia, dei soggetti attivi in ambito capitalistico ci sia comunque frizione, ci sia competizione, e questo poi va a incidere anche sullo sviluppo immobiliare. Nella fattispecie Cabassi, che è proprietario del Forum di Assago, va a presentare il ricorso al giudice amministrativo, al TAR, rispetto all'operazione del palazzetto, poiché da PGT la destinazione doveva essere il zona spazio conferenze, sostanzialmente. Il ricorso è perso, il TAR sentenzia sulla legittimità da parte del Comune di Milano e da parte del soggetto, del promotore immobiliare, rispetto all'operazione, motivo per cui si parla spesso del PGT che ha come orizzonte 2030, no? Come strumento urbanistico che va a ridefinire lo spazio urbano come uno strumento regolatore. In realtà nel momento in cui la regione adotta, anziché il più tradizionale piano regolatore, il piano di governo del territorio, dà vita a uno strumento che più che definire e regolare l'ambiente urbano, definisce e regola il mercato che va a ridefinire l'ambiente urbano. Il nuovo strumento urbanistico, nuovo poi ormai ha una ventina d'anni, 15-16 anni, non è più in grado di offrire quei vincoli che possono permettere comunque ai quartieri di avere comunque una via d'uscita, una sorta di paracadute rispetto agli appetiti dei grandi investitori immobiliari. Sempre sulla parte sud di Milano, sulla zona, in principal modo su Corvetto, il pubblico non solo sta facendo l'arbitro, poi più che l'arbitro il promotore di questo tipo di progetti, ma è anche esso un edificatore. La direzione urbanistica, la direzione politica e sociale del comune e altre direzioni, però queste le due che ho citato sono le due più grosse, sono da un paio d'anni insediate presso il palazzo di Via Sile, davanti al quale un altro progetto pubblico si sta adesso realizzando, che coinvolge un progetto che coinvolge il Politecnico e il comune stesso, con auditorium e studentati, e anche rispetto al mercato comunale di Piazza Ferrara, anche su quello è in atto comunque un progetto che chiaramente il comune vende come riqualificazione, che comunque è un progetto che sulla falsa riga di quello che per esempio è successo a Piazzale Lagosta, trasforma un mercato popolare dove è possibile andare a comprare a prezzi accessibili prodotti migliori rispetto a quelli che si possono trovare ai supermercati, diventa un Piazzale Lagosta, per esempio, Allora, scusate, abbiamo avuto un piccolo inconveniente tecnico, ora proviamo a richiamare il compagno, è caduta la linea purtroppo, ora vediamo subito di rimetterci in contatto. Sì, ci senti? Sì, si è annoiato il telefono. È saltata la linea, no, assolutamente, anzi, molto interessante. Sì, scusami, allora, rispetto alla trasformazione del mercato di Piazzale Lagosta, dicevamo. Sì, si fa spesso l'esempio di Piazzale Lagosta, che per quanto negli ultimi anni era decadente, no, come luogo effettivamente utile agli acquisti di prodotti decenti a buon prezzo, oggi è un mercato che vende carne di canguro a 40 euro al chilo e carne di renna a 120 euro al chilo. Questo è un po' l'idea di boutique alimentare che sostituisce quello del mercato popolare, che si vorrebbe imporre anche ad altre zone del territorio comunale, insomma. In particolare Corvetto, che diventerebbe ponte fra le operazioni immobiliari limitrofe e per esempio Porto di Mare, anche comunque fino a estendersi su terreni oggi agricoli, ma domani potenzialmente sotto attacco. Il Corvetto è anche nella zona il quartiere con più densità di edilizia popolare presente. Cioè, non è un caso che all'interno di questo progetto di rigenerazione, no, come si dice nella propaganda fatta dagli operatori immobiliari e dal comune stesso, uno degli effetti collaterali è quello del ridimensionamento del patrimonio pubblico abitativo destinato a residenza popolare, vero, non l'housing sociale, non tutti questi nuovi strumenti comunque gestiti da privati che non rispondono alla richiesta di casa di chi non riesce ad accedere all'abitazione stante i prezzi sul mercato. Non è un caso che probabilmente adesso occorrerebbe contare e fare un lavoro più certosino in merito a questo aspetto, però a seguire la cronaca molti sgomberi negli ultimi tempi sono avvenuti proprio nel Corvetto e nelle zone limitrofe. Questo simboleggiare, ma più che simboleggiare, un tentativo di assedio rispetto a tutti i metri quadri valorizzabili il più possibile. Proprio per chiudere la parentesi, è stato presentato lo scorso anno in Consiglio Comunale il progetto di fattibilità di una nuova metropolina metropolitana, della metropolitana 6. Che andrebbe da Ponte Lambro e arriverebbe fino a San Cristoforo, all'area vicino, non si capisce se proprio in collegamento con la metropolitana 4. Questo è un altro segnale che ci impone di dire che l'investimento da parte del pubblico per la trasformazione di questa importante città. Trasformazione utile esclusivamente al privato è imponente. Ricordiamoci che le linee della metropolitana sono fra gli elementi che maggiormente condizionano il mercato immobiliare, nel senso che anche solo nella presentazione di un progetto di questo tipo fa sì che i prezzi delle abitazioni che sono sulla linea lievitino. Quello che il Corriere, Repubblica, i vari siti che trattano di mercato immobiliare stanno evidenziando negli ultimi due anni è che la zona Milano Sud, la zona investita vicino al progetto Scalo Romane Symbiosis, è la zona dove il mattone è cresciuto, il prezzo della casa è cresciuto maggiormente. Questo non è un buon segnale, in particolare per chi comunque ha come l'orizzonte quello di avere una casa, non fa l'investitore immobiliare, sicuramente invece è un ottimo segnale per i multiproprietari, per tutta quella parte di città che invece sul mattone investe, sul mattone fa rendita, sul mattone guadagna, sul mattone si arricchisce. Rispetto ad altri progetti simili in corso in Europa, che sono già avvenuti, alcuni elementi ritornano. Il ruolo delle fondazioni culturali, per esempio, delle associazioni anche culturali, però le associazioni culturali lo fanno in maniera meno consapevole, più inconsapevole, diciamo. Però le grosse fondazioni come Fondazione Prada ci riconfermano non tanto soggetti in grado di accelerare la vita culturale e sociale della città, quanto soggetti prevalentemente utili a presentare bene, utili a sostenere il grosse operazioni immobiliari. Cioè, non è un caso che queste fondazioni sono molto spesso fondate da soggetti che, come attività principale più lucrativa, hanno quella dell'edilizia, insomma, delle costruzioni e di quella che noi possiamo abbastanza, senza aver paura di sbagliare, definire speculazione immobiliare. Perfetto, noi ti ringraziamo. La cosa che dicevi prima era abbastanza interessante, nella misura in cui, appunto, nel momento in cui noi ci ritroviamo spesso e volentieri a parlare degli sgombri che avvengono nei quartieri, popolari e non, come ci è capitato anche nelle ultime settimane di menzionare anche gli sgomberi di Corvetto, questa tua analisi ci fa ben capire e ben inquadrare la motivazione, come anche dicevi tu, del perché gli sgomberi degli appartamenti, delle case popolari nel quartiere Corvetto, dove appunto la percentuale di edilizia popolare è molto alta, inizia ad avvenire in maniera sempre più massiccia. Noi, guarda, ti ringraziamo, l'analisi che hai fatto riguardo Zona Sud è veramente abbastanza esaustiva, ti ringraziamo veramente, ci sentiremo prossimamente, magari anno nuovo, per cercare anche di parlare, insomma, se possibile, se riusciremo ad incassarci di altre zone della città che verranno investite, oltre che dei progetti di riqualificazione degli scali, perché non c'è solo lo scalo di Porta Romana, ricordiamo, ma c'è anche lo scalo di Farini ed altri che non sto qui a menzionare ora, e poi comunque il progetto, insomma, di Milano Cortina non toccherà insomma solo quella zona sud, ed inoltre poi c'è un punto che purtroppo non riusciamo a trattare oggi perché siamo addirittura d'arrivo con la trasmissione, però il PGT del 2030 anche, diciamo, ci metterà buona parte del suo zampino nella trasformazione della città che proviamo a vivere e ad attraversare. Bene, noi ti ringraziamo e ci sentiamo prossimamente. Grazie a voi, volentieri. Grazie, gentilissimo. Grazie, ciao ciao, buona giornata. Bene, allora ora noi siamo addirittura d'arrivo con la trasmissione in FM su Radio Onda d'Urto. Ricordiamo che noi andremo avanti, ci sentiamo un paio di canzoni selezionate dal Bondaina e poi diremo tutta la carrellata di iniziative in settimana. Andremo avanti sul link http://radioondadurto.it/9000/tagada. Potete quindi continuare ad ascoltarci in streaming e ricordiamo che i podcast poi li carichiamo sul nostro sito cronachediregime.noblogs.org. Ringraziamo intanto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in FM di Radio Onda d'Urto. Lasciamo spazio appunto alla trasmissione che segue dopo di noi, allo spazio approfondimenti della redazione di Radio Onda d'Urto. E ora andiamo avanti con un po' di musica, ci sentiamo una doppietta musicale. Ci sentiamo prima i Vive La Fête e poi Tom York. Vai Dina. Je souhaite que je pourrais danser. C'est un plaisir de danser.

Isolamento, tortura, 41 bis. Isolamento, strage, tortura, Mar Mediterraneo, 41 bis. Piazza strage, Fontana, Bologna, Mediterraneo, morti Piazza sul lavoro, Fontana, pandemia, Bologna, rivolte in carcere 2020, pandemia, Modena 2020, rivolte in carcere 2020, Santa Maria Capovetere, Santa Maria Capovetere, 80 morti suicidi in carcere nel 2022, riqualificazione da strage comune a strage politica, accanimento contro gli anarchici, il nemico pubblico, le stragi le fa lo Stato. Lunedì 12 dicembre, ore 18, palestro, spezzone al corteo contro i fascismi e contro tutte le guerre. Le stragi le fa lo Stato, solidarietà a chi lo attacca. E torniamo in diretta con Radio Tagadà. Allora iniziamo tutta la carrellata di iniziative che ci saranno in settimana a Milano, ma parliamo un attimo prima di una richiesta di nuovi e nuove volontari e volontarie per il dopo scuola del venerdì in via Magenta 117 a Sesto San Giovanni. Quindi se ci sono persone, compagni o compagne, ma anche semplicemente chi ha voglia di dare una mano con il dopo scuola per lo spazio in via Magenta 117, potete contattare via mail, Facebook o Instagram i compagni a spazio.magenta117@gmail.com e anche su Facebook ed Instagram. Allora iniziamo, non possiamo non partire che dalla tradizionale fiera degli Alter Bay, che si è spostata nel cavalcavia bus a Milano da un po' di anni. Oggi è l'ultimo giorno, dalle 9 alle 20, e ci saranno come al solito tante stravaganti bancarelle per magici regali, musica DJ set, artisti di strada, giocoliere, associazioni, street food e vegan, vino del contadino, ma anche birra artigianale e vin brûlé. Come abbiamo detto ad inizio puntata, stasera al Cuore in Gola ci sarà dalle 20 la proiezione di Io sono Fabrizio e la cena popolare. Ricordiamo ancora una volta che la proiezione del docufilm di Io sono Fabrizio, Viaggio nella memoria, fa parte della Due Giorni che è stata organizzata dall'Assemblea di Lotta per la Sanatoria di Milano e che ha visto ieri presso il T28 in Transiti la proiezione di Sotto un cielo di piombo di Massimo Sestili con la cena popolare, e oggi appunto si completerà questa Due Giorni di iniziative con Io sono Fabrizio, e questa Due Giorni è in avvicinamento al ventennale della Notte Nera di Milano, dove Dax è stato ucciso dai fascisti il 16 marzo del 2003. Oggi al Boccaccio ci sarà la serata di autofinanziamento e l'assemblea di Monza e Brianza per un presente lotta comune di Insorgender dalle ore 19, apericena vegan e banchetti più rap, hip hop, trap eccetera, e dalle ore 21 drag show e DJ set techno presso la FOA Boccaccio in via Timavo 12 a Monza. Ricordiamo che il FOA Boccaccio di Monza è anche sotto sgombero, dopo vi diremo di martedì prossimo cosa accadrà a Monza. Domani invece alle ore 11:30 in via Susi 12 a Milano ci sarà l'assemblea aperta di autoformazione sui permessi di soggiorno sull'assemblea di Ci Siamo. Via Susi fa parte appunto della serie di occupazioni che ci sono nella zona nord di Milano del collettivo di Ci Siamo. Domani, sempre dalle 12:30, invece a Roa, al Parco Europa, ci sarà il presidio e murales per Gnappo, musica dal vivo, artisti, funk, fanfara obbligatoria non convenzionale, Laura B e Nicola Gallo, Alessio Lega, Teca P, Floga Spaghetti, Beppe Rebel, Marco Clerici, DJ Set, Solgia Rebel 360, interventi politici e panini, vin brûlé, birra e grappa, il ricordo di Gnappo che è scomparso appunto quest'autunno. In caso di maltempo la giornata sarà rimandata al 18 dicembre. Lunedì 12 ci sarà il solito corteo che si tiene a Milano per la strage di Piazza Fontana, alle ore 18 a Palestro ci sarà lo spezzone contro la repressione in solidarietà ad Alfredo con tutti i prigionieri in lotta per un mondo senza galere. Martedì 13, come dicevamo prima, ci sarà l'assemblea pubblica alle 21 contro il sequestro e lo sgombero del FOA Boccaccio 003 di Monza in via Timavo 12 a Monza. Anticipiamo già che probabilmente faremo una chiacchierata con i compagni riguardo la situazione che si sta creando in Brianza. Mercoledì alle ore 21 il consueto appuntamento a casa Crescenzago con gli incontri sull'educazione libertaria, il gruppo di lettura su relazioni educanti antiautoritarie, a partire dai brani tratti da Quale scuola di Lev Tolstoj, Descolarizzare la società di Ivan Iličić e Liberi di imparare di Francesco Codello e Irene Stella. Venerdì 16 dicembre invece al Baraonda dalle ore 20 ci sarà la cena benefit, io mi associo, la lotta non si arresta al primo grado, a seguire il karaoke, quindi ci sarà questa iniziativa benefit per le condanne di primo grado riguardo il processo Robin Hood che riguardava appunto la repressione del comitato degli abitanti di Giambellino e Lorenteggio. Per info e prenotazioni fornellisolidali@gmail.com. Sempre venerdì in quel di Treviglio ci sarà l'inaugurazione della piccola biblioteca dalle ore 18 in poi in via Conegi Gurletti 12 a Treviglio. Appunto il collettivo Tana Libera Tutti presenta la piccola biblioteca e il proprio spazio, sede dell'aula studio libera per studenti e lavoratori. Se volete avere maggiori info potete farlo a collettivo Tana Libera Tutti @gmail.com oppure sulla pagina Facebook del collettivo di Treviglio. Finiamo con venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022 con Agenzia X che presenterà Slam, Se solo queste guerre non scoppiassero a piangere. Questa iniziativa che ci sarà in Conchetta in via Conchetta 18 al CSA Cox, appunto ci sarà una presentazione di varie situazioni artistiche, fumetti, libri, eccetera, venerdì 16 e sabato 17 dicembre. Bene, noi ora con le iniziative abbiamo terminato, la nostra trasmissione volge al termine, ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda d'Urto e chi si sente i podcast a casa. Ricordiamo che settimana prossima ci sarà l'ultima puntata del 2022 di Radio Tagadà, andremo in diretta dalla sede di Radio Onda d'Urto a Brescia. E niente, come al solito ci sentiamo in radio e ci vediamo in strada con Pasca la voce e Dynamite i controlli. Un saluto, un buon pomeriggio, un buon fine settimana di lotta, ci vediamo in strada. Little look from outside.